fatto colpi in testa prima di andare a letto. Io mi devo dare per riposare 100 colpi in testa appena dopo colazione. Io mi devo dare per cominciare. Non sopporto quegli strani personaggi che abitano locali detti altolocati. Ho uggia delle loro mille smanie, stanno sempre in posa, sono solo forma. Non sopporto stare a chiacchierare di tutte le stronzate ci passano davanti. Preferisco stare chiuso in casa, tu chiamami a sociale, ma io sono normale. 100 colpi in testa prima di andare a letto, io mi devo dare riposare. 100 colpi in testa appena dopo colazione, io mi devo dare per cominciare. Non sopporto quelli che condividono qualsiasi stronzata, scovino in rete frasi tipo non mollare mai, sei sempre te stesso, sei il centro dell'universo. Non sopporto popcorn al cinema, non mangio un chiar molesto, giuro lo detesto. Non sopporto quelli che non rispondono mai al cellulare, ma che cazzo l'hai comprato a fare? 100 colpi in testa prima di andare a letto, io mi devo dare per riposare. 100 colpi in testa appena dopo colazione, io mi devo dare per cominciare. Pensavo di soffrire tanto, proprio io non lo immaginavo che potessi amarti così tanto. 100 colpi in testa prima di andare a letto, io mi devo dare per dimenticare. 100 colpi in testa appena dopo colazione, io mi devo dare